nasce in Tunisia, arriva in Algeria e l'Egitto segue a ruota, segue la sua scia. Il vento arriva in Libia contro la pazzia, si ribella anche il deserto, la stessa litania. Cadono i castelli della tirannia, crollano le teste dell'ipocrisia. Il vento del deserto arriva sino in Siria e arriva come un fulmine la democrazia. In ogni primavera nascono i fiori e le strade sono piene di liberi colori. Shukran, Arabia, Baraka, la tirannia, Salam, Alakum, Salam, democrazia. I figli della luna per anni sotto al sole hanno ospitato sangue, martiri e dolore. Piaghe nel silenzio durato troppo a lungo, hanno ripreso il cielo, ripreso il loro canto. Gigli del deserto che profumano di mare, nomadi carezze della luna, siete il sole, danza nel deserto dal tramonto sino all'alba. Lasciati ammirare, mia cometa, mia colomba. In ogni primavera nascono i fiori e le strade sono piene di liberi colori. Shukran, Arabia, Baraka, la tirannia, Salam, Alakum, Salam, democrazia. Primavera nascono i fiori e le strade sono piene di liberi colori. Shukran, Arabia, Baraka, la tirannia, Salam, Alakum, Salam, democrazia.